Il programma che hanno costruito i ragazzi lo troviamo in questi appunti, no, non si leggono secondo me neanche da metà della sala, quindi non sforzate la vista, io vi leggo quello che c'è scritto, è il programma fatto dalle loro domande. È diviso in 5 capitoli, come è fatto e come funziona il sesso. Le domande raggruppate possono essere così formulate: come sono fatti gli organi genitali, come si possono conoscere, a cosa servono, come funzionano e poi cos'è, quando e come avviene lo sviluppo sessuale. Secondo capitolo, come si usa il sesso, come si usano il corpo e gli organi genitali quando si è da soli, come si usano il corpo e gli organi genitali quando si è in due. Adesso ci sono domande anche più complesse del tipo quando si è in tre, quando si è in molti, però noi ci limitiamo a due. Poi cos'è il piacere? Cosa significa fare l'amore? Come si fa l'amore? Quando si fa l'amore? Queste sono domande ad altissima frequenza se chiedete ai ragazzi o ai bambini, chiedi quello che vuoi, no? E busta. Ecco, raccogliamo tante buste, queste sono 15.000 domande raccolte in tutta Italia e poi suddivise in capitoli. E poi vogliono sapere cosa si prova e come si comunica, e allora domandano che cosa significa innamorarsi, amare, costruire un legame di coppia, costruire una famiglia. Poi come ci si fa la corte, come ci si comporta nella coppia. E poi ci sono molte domande sull'etica, trasversalmente ai contesti, più laici, più religiosi, bambini più grandi, di bambini più piccoli. Io ho messo come paragrafo una domanda scritta da una ragazza che mi è piaciuta molto perché è formulata così: come si usa il sesso per fare il bene? Ed è secondo me la migliore idea di etica che si può spendere nella vita. E poi ci sono domande sulle conseguenze, come fare a non fare i bambini facendo l'amore e come si deve fare per non ammalarsi facendo l'amore. Queste sono le domande ad alta ricorrenza. Poi ci sono domande di ogni tipo, su ogni capitolo dell'uscibile intorno alla sessualità umana, ma si riduce molto la frequenza e quindi, diciamo, sono un po' dei fuori programma. C'è un aspetto che l'altra volta avevamo detto di ricordarci di affrontare, vediamo se è questa sera o la prossima il momento buono per parlarne, ma ne parliamo, ed è il discorso su omosessualità, identità di genere e transessualismo, discorso che dobbiamo fare, magari lo lanciamo in ultima serata. L'unica cosa che volevo anticipare è, dal mio punto di vista, non bisogna costruire un programma speciale di educazione sessuale per persone transessuali, per persone omosessuali, perché non è nient'altro che far uscire la discriminazione dalla porta e farla rientrare dalla finestra. Nel momento in cui io dico tu hai bisogno di un'educazione sessuale speciale, sto già mettendo in discussione tutto ciò che poi affermerò. E quindi noi abbiamo in mente l'educazione sessuale per le persone umane, indipendentemente dal loro orientamento e dalla loro identità di genere, col fatto che poi ne parleremo sia di orientamento che di identità, ma trasversalmente a tutte le persone presenti, per esempio in una classe, in una scuola. Questo è il programma. Proviamo a fare un discorso concreto partendo dal primo gruppo di domande: come è fatto e come funziona il sesso? E proviamo a rispondere in parallelo a tre domande. Mamma, come si fanno i bambini? Questa è una domanda di un bimbo piccolo. Okay? Normalmente il punto critico di questa domanda è riferito al come fa papà a mettere il semino dentro al pancino della mamma. Ok, perché sul resto grandi problemi noi non ne abbiamo e loro non ne hanno, è una cosa interessante, avvincente, curiosa, eccetera eccetera. Poi seconda domanda: quanti buchi ha la donna? Qui siamo in preadolescenza. E poi terza domanda: senta, io non riesco proprio a trovare il buco di cui lei parla. ok, sono vergini, ho le mestruazioni, dove sarà mai? Con il rimprovero, che è contro le leggi naturali e morali, toccarsi e guardarsi per capire come siamo fatte. Sono tre livelli diversi della stessa domanda. Ok, la domanda formulata da un bambino, da un preadolescente e da una ragazza in piena adolescenza. La questione che dobbiamo affrontare è: che cosa vogliamo far sapere? Proviamo a vedere se ci sono delle cose, per esempio, che ci stanno a cuore. Noi siamo fedeli al testo, loro ci hanno chiesto. E risponde a questa domanda: ma che cosa vogliamo far sapere? Vedete la domanda numero 2, quanti buchi ha la donna? Tentiamo una risposta, quanti buchi ha la donna? Contate con calma. Allora, qui abbiamo 3, comprese le narici. Quindi abbiamo una proposta di base su 3. Potremmo, aggiungendo per esempio, come tu dici, potremmo arrivare anche a 7. Anche a 4, quindi 3, 4, 7. Vabbè, è ovvio che tutti sappiamo contare, almeno questi numeri fino a 10. Però il problema è che la matematica non è un'opinione come metodo, ma si fonda sulle opinioni per decidere che cosa contare. Mi spiego, quindi... quando già qualcuno dice io faccio dell'educazione sessuale scientifica, io dico che cos'è l'educazione sessuale scientifica? Ah, è un'educazione sessuale neutrale, io non tengo per nessuno, né per i cattolici, né per gli atei, eccetera. Oh. Che poi a letto, io non ho mai capito bene qual è la differenza tra i cattolici e gli atei, c'è. Però è difficile beccarla proprio su queste domande. E allora, a volte è soltanto un modo strano per dire che è una roba neutrale e scientifica. Detto questo, voi vedete che noi siamo in imbarazzo e in una difficoltà di conto perché questa domanda ci chiede di prendere posizione. E questa posizione non è scientifica. Cosa faccio? Faccio riferimento all'apparato genitale o urogenitale? Come li conto? No? Allora, se dovessi contare i buchi sessuali di una donna, dovrei dire uno, però qualcuno... No, giusto, è giusto, beh, dipende come ci ragiono su. Mi spiego, allora, se sessuale vuol dire appartenenza a un apparato, uno, fuori discussione, l'anatomia topografica ci dice uno. Ma se ha a che fare con ciò che ispira sessualità in lei... e in lui il conto potrebbe essere diverso, no? Vabbè, questa è una buona domanda che ci fa un ragazzino, perché ci costringe a smettere di pensare di poter fare un'educazione sessuale neutrale o scientifica. E allora proviamo a impostare una risposta. Cosa vogliamo far sapere a sto ragazzino? A sta classe di maschi e di femmine? Teniamo un attimo il bimbo che ha chiesto come si fanno i bambini, lì in attesa che se riflettiamo bene adesso poi abbiamo anche una risposta per lui. Beh, intanto potremmo domandarci cosa vuol dire buco, allora scopriremo che di buchi forse non ce ne sono, se buco è un foro, no? E potremmo riflettere con i ragazzi in questo senso. Ma no, non è che ha dei veri buchi. Dicono loro, credevo di sì, perché magari hanno anche già dato un'occhiata attraverso la pornografia. Oggi i bambini vedono tutto, ma non sanno guardare, cioè essere bombardati da segnali visivi e provare anche delle emozioni connesse a quei segnali non vuol dire essere stati educati a guardare ciò che arriva ai nostri occhi. E quindi sono anche confusi, sono imbarazzati, cioè c'è gente che sa, ha visto tutto e non sa niente. Mi spiego. Io tutti i giorni vedo persone di 20, di 30 anni che non sono capaci di fare l'amore perché si perdono nel corpo, perché non sanno bene come è fatto, non sanno come funziona. Parlo di gente che ha studiato e gli hanno anche fatto l'educazione sessuale. Mi spiego. Perché non sanno guardare. Allora, poi si stupiscono se non c'è un buco o almeno uno tra le gambe di una ragazza. E una ragazza può dire, ma io sono vergine, per quello non c'è il buco, ed è sbagliato, non è per quello che non c'è il buco. Mi spiego. E quindi lì ci siamo già fatti una fantasia che porta verso una sofferenza, perché immagino di avere un problema e invece non ce l'ho. È così. Allora, cominciamo a dire che forse non ci sono buchi, che ci sono accessi, no? Che si può accedere al corpo, e che questi accessi non si presentano necessariamente sotto la forma di un buco. E se parliamo di accessi, parliamo già di nuovo di un movimento, di una carezza, di un disporsi verso, no? E quindi, con i ragazzi parliamo e discutiamo, cioè non è che uno è un buco o è un corpo con dei buchi, è una persona ed è previsto che si possa, su invito, accedere al suo corpo in modi diversi, in diverse parti del suo corpo, ovviamente se c'è desiderio da parte di entrambi, pieno accordo, e se si sta rispettando ciò che per noi vale, quindi quello che la gente chiama un sistema di valori, no? Se siamo, diciamo, fedeli alle cose che per noi contano di più. Poi, tante volte non riusciamo a essere fedeli, ma insomma almeno abbiamo un'idea, ok? Quindi trasformiamo la parola buco nella parola accesso. Ai bambini diremo porticina, ma attenti alle porticine, che poi... poi uno ha la porticina lì e dice chiusa, come si fa? Che è vero che è una metafora e non una similitudine, mi spiego, però è pericolosa anche come metafora. E allora proviamo a domandarci quali sono i buchi sessuali. Per esempio la bocca è un buco sessuale. La bocca si dicono cose meravigliose, sessuali. Ci si bacia, ci si assaggia, no? Poi magari Gigetto, che ha fatto la domanda, aveva anche in mente che con la bocca si possono baciare gli organi genitali, si possono dare i baci al pisello, allora questa cosa gli piace. Perché no? E quindi... noi diciamo, sentite, adesso invece che contare i buchi, proviamo a conoscere come è fatta una persona, proviamo a raccontare una persona, così nel racconto la conosciamo, e la conosciamo bene. Ma per conoscerla bene bisogna raccontarla bene, per raccontarla bene bisogna star bene mentre la si racconta. Quindi, prima di andare avanti col discorso, creiamo delle piccole premesse. Quali sono i racconti migliori? Sono i racconti che fa nascere un'emozione, perché l'emozione si aggrappa al pensiero, lo trasforma e lo fa diventare qualcosa che conta per noi. Se invece è un pensiero freddo, un po' secco, un po' da solo, lo conserviamo nella memoria solo se è molto importante ricordarsi. Per esempio facciamo tante operazioni ogni giorno che è importante ricordare, non è che ci emozionano tanto, ma insomma sono diventate delle buone abitudini. Se invece qualche cosa è importante ma non lo usiamo tutti i giorni, o per un po' di tempo non lo useremo ancora, perché siamo magari troppo piccoli o più sfortunati, perché non abbiamo ancora un ragazzo, non abbiamo ancora una ragazza e così via, cosa facciamo? È meglio fermarlo con un'emozione. Il problema è che le emozioni devono provare le persone che ci ascoltano. E come facciamo a generare emozioni in chi ci ascolta? Vabbè, lasciando da parte i grandi spettacoli, appunto, materiali audiovisivi, eccetera, c'è un sistema biologico pronto per generare emozioni in chi ci ascolta. Poi, forse, converrebbe dire in chi cerca insieme a noi, perché poi ascoltarci è ancora una posizione un po' passiva. E il sistema biologico si chiama sistema dei neuroni specchio, che è stato scoperto non tanto tempo fa. Però, prima che Rizzolatti e Gallese scoprissero e nominassero così questi neuroni un po' particolari, tutti sapevamo della loro esistenza. Perché se vedete uno che ride e non sapete perché cosa, dopo un po' vi mettete a ridere anche voi. E questo grazie ai vostri neuroni specchi. Mi spiego? Perché se guardate una partita in televisione, dopo siete stanchi, pur essendo stati seduti, e questo Ma sì, tutti i vostri muscoli erano pronti per andare su una palla, per mettere una racchetta al posto giusto, per segnare un gol, eccetera. Quindi guardare una partita è una fatica fisica, molto meno che giocarla sul campo, no? Però c'è proprio un consumo, e questo lo abbiamo sempre saputo. E se una persona piange, a volte ci commuoviamo, eccetera, eccetera. Perché? Perché il nostro cervello cerca di ricreare dentro di sé ciò che forse sta provando il cervello di un nostro simile. E questo è prodigioso, se ci pensate, perché ci mette in comunicazione con gli altri anche su ciò che non sappiamo di preciso degli altri, cioè su ciò che forse accade nella loro testa. Ed è un'informazione per noi indispensabile, per esempio per dar senso a una carezza. Quando tu mi tocchi, perché mi stai toccando? Perché mi desideri? Perché sennò dopo un po' che non mi cerchi io mi arrabbio? Per tenermi buono che oggi hai toccato un altro, ma così non te ne accorgi tanto. Sempre una carezza, eh? E io voglio saperlo. Ma sono tre carezze un po' diverse. Ma la mano fa sempre lo stesso movimento. Ma la pelle non riceve lo stesso segnale. E io cerco di mettermi nella tua testa mentre tu mi accarezzi. Dici, ma cos'è che mi accarezzi? E i miei neuroni specchio mi aiutano un po'. Se ci emozioniamo. Se uno sta freddo mentre ci accarezza, diciamo, vabbè, dai, adesso non c'è un perdo. No? Leggiti un libro, fai un'altra cosa. Perché non riusciamo a stare in una carezza quando l'altro non è emozionato? Perché non riusciamo a costruire conoscenza. Ecco allora, se un bambino ci chiede come si fanno i bambini, se un ragazzino ci chiede quanti buchi ha una donna, noi non possiamo dirgli un numero e non possiamo dargli una definizione tecnica della vagina, perché quella non se la può ricordare. Va insieme alle date di storia e a un po' di traduzioni di autori latini. Cioè, noi ci ricordiamo le frasi in latino che ha detto un nostro professore mentre era turbato da quelle frasi, e noi eravamo interessati al suo turbamento e ci ricordavamo la frase. Se no va via, dopo un po' va via, mica parliamo in latino. Eppure qualcosa è rimasto. Allora, stessa cosa per il sesso, che se volete è ancora più importante del latino, perché lì si fanno anche guai. Mi spiego, col latino meno. Col sesso tanti, no? E allora è molto importante avere conoscenze nelle mani di quelle che restano, ed è importante passare attraverso un'emozione. Quale? Bella. Dobbiamo star bene, così chi ci ascolta vede uno una che stanno bene e dice, tu voglio star bene anch'io, chissà cosa gli passa per la testa. E così poi noi abbiamo il trucco. Trucco, no, espediente. Che i ragazzi, soprattutto quelli che hanno già in testa il sesso proprio di quello che si fa sotto l'albero di ciliegio, no? I ragazzi devono prima appassionarsi perché vedono gente appassionata di sesso, e poi devono domandarsi, ma come fai tu a star così bene? E noi incominciamo a dirgli, ci spendo della fatica. Fatica? Che orrore è questo? Sì, anche un po' di dolore. Dolore? Ma sesso è una roba che fa godere? Sì? Ma non così. Cioè, quello che fa godere così, anche, no? Però poi non dà soddisfazione abbastanza. Per esempio, devo aspettare. Aspettare? Oggi è una cosa dell'altro mondo, aspettare, no? Eh sì, devo aspettare che anche chi mi accarezza abbia voglia di me. Perché? Sei la tua ragazza, sei il tuo ragazzo. No, non basta. E allora incominciano a intuire che noi siamo più goduti di loro. È loro che rubano un po' di sesso a buon mercato e credono di aver trovato il senso della vita, vedono nelle nostre emozioni che non è vero e intuiscono che c'è qualcos'altro da cercare, che merita, ma merita così tanto che si stupiscono del come facciamo a essere così goduti quando ne parliamo. Questo è l'unico modo per chiedere a un adolescente che cresce di far fatica per fare del buon sesso, del sesso che merita. È il modo che una volta si chiamava della testimonianza. Io sono lì, incarnato, con quello che penso, con quello che provo, con il mio racconto. Un altro si interessa non tanto alle cose che dico, ma a me che sto così, e dice anch'io, voglio stare bene anch'io. Se andiamo tristi, scoraggiati, delusi, che fa un po' schifo, perché dovrebbero interessarsi? Prendono quello che viene e già grazie. Okay. Voglio dire, questa è proprio una nostra responsabilità, la testimonianza, no? Cioè, se non sto bene, perché uno deve fare le cose che gli dico? Dico, ma sei strano, stai male come un cane, e dici fai come me, no? Allora vengono da noi e dicono, ma guarda, piuttosto ti spiego io delle cose, sai, quelle carine, prova a berti sta roba prima di far sesso, guarda che è molto meglio, una bomba. A volte funziona, però no, dobbiamo fare la nostra propaganda sotto forma di testimoni. E poi l'ultima cosa, quando siamo attrezzati con un'emozione buona, di roba che ci piace, non guardiamo mai dei libri, guardiamo delle immagini, mettiamole in movimento e raccontiamole come si racconta una cosa che succede o che è successa, va bene? Sono un'accortezza, in queste immagini, se voi dite due che stanno facendo l'amore, dovete guardare nella mente due che fanno l'amore. No, non leggere rapporto sessuale su un testo, il rapporto sessuale non fa emozionare nessuno e non si capisce neanche cos'è. Due che fanno l'amore li guardate e li raccontate, però non mettete in quella scena mai le persone a cui vi rivolgete, per nessuna ragione, è un tabù inviolabile, perché se incominciate a mettere loro nel film che raccontate e a guardarli mentre lo raccontate, state abusando della loro sessualità con loro che non possono difendersi, d'accordo? Problema di coscienza personale o professionale, se lo facciamo anche per mestiere, ma se siamo genitori è un problema di buona coscienza. E poi non mettiamoci noi nel film, terribile, cioè la prima volta che ridono di noi stessi, noi come facciamo a sopportare? Tante volte ci sentiamo umiliati da come una persona legge la nostra storia. La nostra storia sessuale è meglio non usarla per fare i racconti, quindi prendiamo attori a prestito, prendiamo persone belle che ci piace vedere, che fanno ciò che stiamo raccontando e che ci emozionano mentre lo fanno. Se mettete qualche nota biografica, poca, come il sale in cucina, proprio soltanto ciò che dà un po' più di sapore, ma un pizzico in più guasta la ricetta. E il mio consiglio è non partite da lì, perché vi mettete subito in un guaio, cioè siete in presa diretta con la vostra vita sovraesposta. Con questi accorgimenti proviamo a raccontare. Allora, un'emozione che provo io, così la provano gli altri, o almeno si incuriosiscono. Bella, così ne vale la pena, anche fare un po' di fatica. L'emozione nasce da una scena che io guardo e racconto. Appena non è più così, non è più materiale da carezze. È una teoria sulla sessualità, ok? E non funziona più, cioè va in un archivio da cui non si prendono le informazioni mentre si fa l'amore con qualcuno. E allora abbiamo i buchi, no, sono degli accesi. E come li possiamo raccontare questi buchi? Proviamo prima con un adolescente e poi con un bambino. Se una ragazza si spoglia e si mette nuda davanti allo specchio verticale dell'armadio, che cosa vede? Questo è l'incipit di un racconto, ok? Se voi partite invece da un materiale, voi dovete risolvere altri problemi. Va bene, questo è un testo di anatomia. Va anche bene così. Ma cosa dite? No? Che ci sono le grandi labbra, le piccole labbra, vestibolo, l'ingresso della vagina, poi un canale che collega il mondo esterno con l'utero. Clitoride, ecco qua. Parte sensibile, da piacere. Noi dovevamo trovare un senso, capire come è fatto e come funziona, per usarlo. Cosa sappiamo dopo che abbiamo deciso che queste sono le grandi labbra, queste le piccole labbra, questo è il vestibolo della vagina? Sappiamo esattamente quello che sapevamo prima. Poi vogliamo sentirci belle, forse, anche, no? Buone e speciali. Qui non c'è niente, di bello, né di buono, né di speciale. C'è anche Toglio. E allora raccontiamo. L'incipit di una storia è: se una ragazza si mette nuda davanti allo specchio, che cosa vede? Vede il suo corpo nudo. Con questa prima frase noi abbiamo fatto due scelte. Una è autorizzare a guardarsi nude nello specchio per capire come siamo fatte. Ma senza dire puoi farlo, se vuoi, ti vedi, no? Quindi non diamo un compito, non diamo un permesso, ma un'autorizzazione di fatto. E poi abbiamo scelto una posizione narrativa facile, che è se una ragazza, abbiamo usato la terza persona singolare. Potevamo anche dire se tu ti metti nuda davanti allo specchio, ma la relazione diventava molto impegnativa. Oppure, essendo chi racconta una donna, se noi ci mettiamo nude davanti allo specchio. Questa prima persona plurale è molto coinvolgente, è molto forte, a volte è necessaria per risolvere certi problemi educativi, soprattutto in situazioni dove apprendere è più difficile, però è difficilissimo usarla in una classe, per esempio. Quindi, di nuovo, il suggerimento è: facciamo raccontare da una ragazza presa in prestito, una ragazza come noi, ma nessuna di noi, essendo però una ragazza in cui tutte possiamo identificarci, no? Possiamo raccontare che cosa succede quando, se vuole, si guarda nuda allo specchio. Okay? Ecco, questi sono piccoli espedienti narrativi che però permettono di fare due cose insieme. Identificarsi senza essere violati e messi immediatamente in gioco, perché potrebbe essere troppo difficile, e sentire il permesso di farlo. Attenzione, ci sono ragazze che non lo possono fare, ma non per il sesso, perché non possono guardarsi nello specchio, né nude né vestite. E quindi attenzione a dire se e quando volete, quando ve la sentite, perché immediatamente diventiamo pericolosi per altre vie. Una ragazza anoressica fa fatica a guardarsi nello specchio, perché vede sempre che è grasso, anche quando è magrissimo, quando è la più magra di tutte le ragazze che conosce. Lei vede che è grassa. E quindi sta male. E allora dobbiamo dire se, quando, nel momento della vita in cui vorrà. Che cosa vede? Primo problema, dove deve guardare? Se vogliamo parlare dell'apparato genitale, dobbiamo guardare tutti nello stesso punto. E allora la prima cosa saggia, quando si racconta qualcosa a qualcuno, è accertarsi che condividiamo i confini dell'oggetto che stiamo raccontando. Dov'è che incomincia il sesso? Prendete la storia del costume da bagno. Il costume da bagno è sceso sempre di più, ma prima di scendere un altro po', copriva ciò che era già sesso. Mi spiego? Ricordo la prima strisciolina di pelle, qua su una spiaggia, e siccome era una spiaggia delle suore, hanno cacciato via questa strisciolina di pelle nella spiaggia accanto, era già troppo, io sono vecchio, però... Poi è andato veloce, è sceso rapido il costume, ma qui si parlava di un pezzo di pancia, eppure era già sesso. Quindi se noi ci accontentiamo di come ognuno sceglie di guardare gli oggetti e non ce lo diciamo, rischiamo già di perderci per la strada. Allora facciamo una cosa molto semplice. Il sesso di cui parliamo adesso, Carlotta lo vede, sì, tocca qui in fondo alla pancia e sente che c'è un osso, un pezzo del suo bacino. Ma sopra questo osso c'è un po' di ciccia, un po' di pelle e se è già grande, dei peli. Un altro confine è l'ano, a volte parlate più semplice, il buco del sedere, che così capiscono proprio tutti. E questa è la cosa importante, che tutti abbiano capito. E poi l'attaccatura delle gambe al corpo. Questo è il confine. Poi c'è un problema, c'è un confine dentro. E questo è un problema di prevenzione di alcune malattie sessuali, di alcuni disturbi sessuali. C'è un pezzo di apparato genitale che la medicina classifica come interno. Ma se ci fate caso, dell'apparato genitale interno ce n'è una parte che si usa per ospitare e c'è una parte che invece non si usa. Dall'utero in poi sono organi che funzionano bene, ma per conto loro, senza neanche chiederci il permesso, mentre invece la vagina è una parte che ognuno usa, sceglie di usare, quando usare e come usare. Okay? Allora, attenzione, tutto ciò che è dentro la pancia finisce nella zona vulnerabile del corpo, dove ci sono organi che non devono entrare in contatto col mondo esterno, perché se no sono in pericolo. E la vagina sarebbe tra questi organi, perché è dentro la pancia. E difatti un certo numero di ragazze, anche giovani, che soffrono di vaginismo, cioè di un crampo dei muscoli che stanno alla base dello scavo pelvico, cioè di questa zona della pancia, fanno da pavimento, un crampo che impedisce l'accesso alla vagina. È un crampo di difesa, una contrazione improvvisa, fortissima, dei muscoli. E tante volte questo disturbo, doloroso e invalidante, perché non permette anche a una donna sposata, per esempio, di poter accogliere suo marito dentro di sé, nasce proprio dall'idea che una parte interna del corpo, quindi vulnerabile, e quindi mi farà male o sarò in pericolo. E allora noi facciamo una cosa molto semplice, mettiamo un altro confine e diciamo: c'è una parte che si vede da fuori, adesso la esploriamo, e poi c'è una parte che è dentro al tuo corpo, ma si usa. Distinguiamola dalle parti interne che non si usano. E quella che si usa è forte, sana, robusta, e non ti farai male a usarla, un po' come la tua bocca che è dentro la testa. Ok? Guardate, questo piccolo messaggio risolve dei vaginismi prima che si sviluppi. Ok? Quindi è una buona forma di prevenzione primaria di un disturbo della sessualità che genera molta infelicità, sia in lei che nel suo compagno. Quindi è una coppia subito in crisi. Piccolo accorgimento sui confini. Osso, buco del sedere, attaccatura delle gambe, è una parte dentro che usi ancora. Cosa vedo? Vedo una fessura che ha due bordi, scende in basso tra i peli e gira indietro, no? Guardate nello specchio, vedete? E scompare. Ecco, questo è ciò che si vede di una ragazza nello specchio verticale del naso. I due bordi, i medici le chiamano grandi labbra. Togliete la parola grandi perché è già un problema. Mi ha telefonato una volta una ragazza a cui avevo fatto educazione sessuale a scuola, dicendo: dottore, ho il cancro. Ho detto: chi sei? In più io non mi occupo del cancro. E dice: chi sono? Sono una che ha fatto lezione stamattina con lei. Dico: non abbiamo parlato del cancro. No, abbiamo parlato di come sono fatte le ragazze. E quindi sono andato a casa, mi sono guardata con una mia amica. Lei è fatta come ha detto a lezione, io no. Che cosa aveva? Aveva le piccole labbra grandi e le grandi labbra piccole. Normale. Le piccole labbra erano carnose e spuntavano a petalo fuori tra le grandi labbra, che erano invece appena accennate, e quindi per uno che non ha capito bene la lezione anche difficili da riconoscere, e poi erano molto scure. Lei ha deciso che se erano più grandi era un cancro, in più il cancro secondo lei era pure nero, e quindi si è fatta diagnosi di... Vabbè, ma questa è spiritosa che ha telefonato, io pomeriggio l'ho fatta venire dalla ginecologa del centro, che le ha parlato, l'ha rassicurata, l'ha visitata, si sono guardate, l'ha rassicurata e tutto è andato a posto così. Ma pensate a una che non telefona e pensa per un anno, per due anni, per tre anni di essere malata di cancro e si vergogna a dirlo e ha paura perché non ha capito, eccetera. Quindi siamo su cose molto semplici, sono due bordi. In alcune ragazze si vedono di più, sono più cicciosi, in altre sono più sottili, va bene così, ognuno è fatto a modo suo. Sono coperti di pelle, sono coperti di peli. E quindi come si usano? Come la pelle, ok? Con un po' di gentilezza e basta, senza nessun altro accorgimento. Se voglio sapere di più di come sono fatta, posso prendere un altro specchio, lo tengo in mano, mi siedo sul bordo del letto, per esempio, apro le gambe, metto lo specchio in basso tra le gambe e poi faccio una cosa, mi lavo le mani. Che è un modo per dire che non è che adesso mi sporcherò le mani col mio sesso, ma semmai con le mani sporche sporcherò il mio sesso. Mi spiego? È una cosa molto semplice, mi lavo le mani normalmente, soprattutto se è un giorno e mezzo che non me le lavo, come a volte succede a quell'età. Mi spiego? E il segnale che diamo è molto diretto, no? È soltanto un modo per dire: non sei sporca tu, è il mondo che magari dall'esterno te lo sporca. Mi lavo le mani. E poi dopo cosa faccio? E qui bisogna scegliere le parole, è bello farlo con i ragazzi. Apro i bordi della fessura, separo, distendo. Sono tutte parole che riportano ad altri concetti. Si aprono le cose chiuse, si separano le cose unite, si distendono o si allargano le cose strette. Invece dobbiamo trovare proprio la parola che serve per quel gesto, che è scosto, perché sono accostate. Ok? E se scosto, non faccio nulla di pericoloso, come sarebbe invece aprire, come sarebbe tirare, eccetera. È un gioco linguistico, ma questo gioco linguistico è anche un gioco di emozioni e di emozioni incorporate, perché non è più sta foto, questo disegno assurdo che avevamo lì, ma è il proprio corpo. E lo sto incominciando a rappresentare, a raccontare, a dire a me. Se scosto i due bordi della fessura, che cosa vedo? Ho subito una cosa interessante, cambia il panorama, cambia il colore. Perché cambia il colore? Perché cambia il rivestimento. È uno di questi rivestimenti, lo conosciamo già, molto simile. È come la bocca, per esempio, fuori alle guance, nei maschi anche un po' di peli, come era i due bordi della fessura, e all'interno invece no, è più rosa o più rossa, un colore più acceso, e poi è umida. Ecco, questo rivestimento è un rivestimento speciale. Io uso la parola rivestimento e non la parola mucosa, perché la parola mucosa viene poi dimenticata, tendenzialmente, poi sa anche di muco, non è che sia la roba più romantica che c'è, va bene? Per cui, rivestimento. Questo rivestimento ha tre caratteristiche da non scordare mai più. Belle. Uno, è umido. E si bagna. E perché si bagna? Si bagna per le carezze, e si bagna per i significati che sto dando alle carezze. Ed è un rivestimento sincero. Io posso dirmi di tutto con le parole, imbrogliarmi come voglio, posso dirmi che mi piace un ragazzo, e quel rivestimento mi dice, no cara, che non ti piace. Oppure posso dire che quello proprio a me cosa me ne importa, e sono tutta bagnata. È questo il corpo che parla e mi fa sapere di me. Ed è preciso. Non dice le bugie. Non riesce a dire le bugie, mentre con la testa ce ne raccontiamo di ogni tipo, ok? E tra l'altro parla anche a chi mi accarezza, e può impararlo a capire come io sto nelle sue mani e nelle sue carezze, proprio perché il mio corpo glielo dice, ancor più delle mie parole. E così può imparare a regolarsi con me. Lo impariamo insieme, bello, un'avventura. Pensate che meraviglia questo rivestimento che prende notizie dalle mani e dal cervello insieme. E poi fa sapere a me e a chi è con me. In più è un rivestimento specialissimo, è un secondo motivo, perché è come se un seminatore avesse gettato così un po' di recettori e sono cascati un po' a caso, molti intorno a quel pallino, il clitoride che è molto sensibile, anche troppo a volte. È un altro po' a modo mio. Per cui chi è il miglior amante che verrà tra le mie braccia? Non quello che sa come si accarezzano le donne, ma quello che viene a imparare le mie carezze. Questo è un uomo apprezzabile. Quelli sicuri che dicono, ma so io, non ti preoccupare, sono uomini molto a rischio, è meglio farsi un giro. Se invece uno viene sicuro ma umile e dice, dimmi tu, fai parlare tu il tuo corpo, allora impara ad accarezzarmi. E tra l'altro voi lo imparate con lui. Perché poi ogni mano fa una storia diversa. Ecco. Questo per togliere ai ragazzi l'ansia di dover essere esperti. E alle ragazze l'idea di sopportare i ragazzi esperti. Ok? Che sono due sciagure nella vita. Per gli uni e per gli altri. E poi ha una terza caratteristica. È un rivestimento più sensibile della pelle. E non diciamo delicato, che delicato è roba pericolosa. Si sciupa. E invece non si sciupa. Pensate in bocca a tutto quello che facciamo. Ma solo usato bene, insomma, ci mette la roba adatta, ma questo si impara in fretta, ok? Ma è molto sensibile. Tradotto vuol dire carezze belle più piacere della pelle, carezze brutte più dispiacere della pelle. Questo è il concetto di sensibilità, ok? Tre concetti. Tradotti in racconto, messi tra le gambe, in forte connessione col cervello e in forte relazione con chi mi accarezzerà. Ecco, questo è un modo per parlare di un semplice tessuto che ricopre una parte del nostro corpo in modo funzionale, etico, estetico e personale. Ne ha già le caratteristiche. Pensate come siamo fatti bene. Poi i ragazzi a volte chiedono, ma perché le ragazze si bagnano? Le ragazze si bagnano per un motivo speciale. Dico, sappiamo che sono delle ghiandoline. Poco, un po' anche delle ghiandoline. Ma quando una donna si bagna, è una cosa più bella ancora. È che, eccitandosi, arriva tanto sangue in quei tessuti. E un po' di questo sangue attraversa le pareti del corpo e accoglie lui che va dentro di lei. E quindi è proprio essere nel suo sangue, ma nella parte del suo sangue accogliente, okay? Per dire che in una carezza c'è tantissimo di una persona, non c'è soltanto un sacchetto, qualche produzione di lubrificanti, questa è la parte tecnica, ed è il cervello che fa fare questo al corpo. Poi c'è un problema antipatico. Non si vede nessun buco. Come mai? Ma per una ragione molto semplice. Avete mai guardato di fronte un sacchetto vuoto? Mica vedete un buco. Per esserci un buco dovrebbe esserci un tubo. Così sarebbe il suo bel foro d'ingresso. Ma appunto la vagina non è un tubo. È un sacchettino vuoto, che sarebbe cavità virtuale le cui pareti collabiscono. Tradotto, un sacchettino vuoto, che si intuisce dove inizia, quindi si vede l'ingresso, l'accesso, appunto non il buco, no? Ma non certamente il foro, perché non è un tubo. E questo sacchettino ha delle caratteristiche meravigliose. Queste sono tutte da ricordare. Uno, è prodigiosamente elastico, si distende in lunghezza e in larghezza e prende la forma del pene. Due, è bello sodo e il pene se lo tiene dentro. Così i ragazzi non si disperano sulla misura del pene, perché sono sempre lì che provano, ce l'ha più lungo, ce l'ha più corto. Io ogni tanto glielo spiego, un pene lungo è sostanzialmente ornamentale, ma dal punto di vista funzionale non produce nessun effetto interessante, se non qualche fastidio, ok? Perché spinge l'utero indietro e a volte può portare più fastidi che vantaggi, mi spiego? Per cui niente di interessante. È un gioco che fanno i ragazzi, ma l'ideale è ricordarsi che questo sacchettino è elastico ed è attivo, non è una roba da riempire. La vagina fa carezze al pene, così come il pene fa carezze alla vagina. Non è un posto dove la gente va e fa, mi spiego? Eh sì, perché poi l'idea è quella in tanti ragazzi e in tante ragazze, no? Allora un altro posto per incontrarsi, per accarezzarsi e per giocare e per amarsi, fino al sangue che ti accoglie dentro di me. E poi è robustissimo questo sacchettino, fatto farà passare un bambino. Quindi è elastico, sodo, robusto, chiuso in fondo, c'è solo un passaggino sottile sottile che va poi nell'utero, quindi non ci si perde nella pancia. I ragazzi non si perdono nella pancia delle ragazze. No, paura di alcune ragazze, dove va a finire? Si ferma lì. Okay. Lo so, sembra così, ma poi vengono con i problemi sessuali perché non hanno chiaro queste cose, no? Tutte sanno di avere la vagina, ma non serve a niente sapere di avere la vagina, ok? In più, che proprio uno sentisse, ma perché deve finirmi in mezzo alla pancia, non va neanche su dritto, va verso la schiena, è tutto fatto bene, è tutto fatto per non disturbare, e anzi, se è ben accolti per dare piacere. Questo sacchettino poi ha anche un suo bordo, e questo bordo ha una caratteristica. È meno elastico del sacchetto. E quando il sacchetto si distende, perché per esempio entra il pene, cosa deve fare sto sacchetto? Sto bordo. Deve stare dietro al sacchetto. E non ce la fa, perché è meno elastico. E allora cede in qualche punto, uno, due, tre punti. Dove ha ceduto rimane sempre il bordo, però guadagna un po' di perimetro. Questo per gli appassionati di geometria potrebbe essere un'idea. Va bene? E quindi guadagnando perimetro sta dietro al sacchetto. Non tira più. Questa tecnicamente è l'imene, la verginità. Ma la verginità non sta tra le gambe, la verginità sta nella nostra testa. E sulla verginità ci sono mille modi per parlarne. Poi ci sono anche i sistemi di valori. Però di questo bordo, che è solo un segno, e come tutti i segni, è è al servizio delle metafore, cioè di qualcosa che ci porta oltre. Non ci lascia lì sul corpo a fare da segno del nulla. Ci porta verso che cosa? Ci porta verso un significato antropologico che è molto più trasversale di tutti i sistemi di valori che dicono verginità sì, verginità no, te la sei tolta, ce l'hai ancora, povera te, eccetera, eccetera. Questo è un discorso delle ragazzine. Anche no, lo so, però. È il discorso delle prime volte, perché noi siamo davvero dei narratori. E l'inizio di una storia è un momento topico, tipico, importante per ogni nostra vita. Tra l'altro non è che c'è solo una prima volta, non c'è la prima volta che ero vergine e poi non lo sono più. Le nostre carezze sono fatte di tante prime volte e che possono significare momenti importanti della nostra vita, tra cui anche la prima volta che un ragazzo viene dentro di me. O mio marito, dipende anche da come raccontiamo le nostre storie, da quali sono i sistemi che abbiamo scelto di usare, no? Allora, se voi trovate un ragazzo che si sposa senza aver fatto sesso, proibitegli di sposarsi, ma parlo del matrimonio in chiesa, Cioè io lo dico sempre ai parroci quando faccio formazione con loro. Se i vostri fidanzati non hanno mai fatto sesso, lasciate stare, cioè... È già pronto per la sacra rota, tribunale ecclesiastico. No, è un problema, io ho fatto per tanto tempo anche il consulente della sacra rota, non ha senso. Se invece ha detto, certo che ho fatto sesso con la mia ragazza, se no cosa faccio, la sposo per corrispondenza? No, ma perché fare sesso è guardarsi, fare sesso è guardarsi come non si guarda nessun altro, è mettere le mani sul corpo di un altro come solo lui lo sa fare, no? E poi dico, io però del sesso ho tenuto una cosa... che vuole significare che adesso incominciamo un progetto nuovo, questa è un'idea bella, come tutti i riti che segnano l'inizio di una storia nuova o un passaggio di stato, che poi sia quello cattolico o no, questo ovviamente possiamo deciderlo noi, qualcuno è più contento di un'idea, qualcuno di un'altra, ma antropologicamente è fondante avere dei segni che ci dicono che stiamo iniziando parti nuove del nostro racconto e che le stiamo condividendo e che ci presentiamo al mondo in un modo nuovo, e vogliamo essere visti e riconosciuti in questo modo nuovo. Sicuramente non una roba che sta tra le gambe. Questo, no, è avvilente. Che ci sia o non ci sia, magari ho fatto ginnastica e non è più come doveva, ma è qua, è la mia scelta. Okay? Quindi di verginità io perderei responsabilizzando i ragazzi sui segni e sui significati. Poi sceglieranno loro. Sceglieranno come vivere le loro prime volte, non tanto se avere rimane intatto o meno, che poi i ragazzi tra l'altro barano al gioco, si vede di meno, e tutte lo chiedono, e i ragazzi si vede che non sono più vergini, mica tanto, devi credere, ok, forse conviene credersi e dirsi delle cose. Ecco, l'idea era questa, adesso andiamo perché è tardi, però l'idea era questa, poche parole, ve le ripeti, nuda, specchio, confini, che si usa, confine dentro che si usa, fessura, bordi, pelle, altro specchio, altro rivestimento, sensibile, non delicato, personalizzato, che si bagna e segue la testa, è il significato. Non buco, perché non tubo, sacchetto, sacchetto elastico, sacchetto forte, sacchetto sodo, sacchetto con il fondo, sacchetto con un bordo meno elastico che cede, segno. Appartenenze, storie, racconti, trovate il valore, lavoriamo con i ragazzi, facciamoglielo cercare. Poche parole, e abbiamo raccontato l'apparato genitale femminile. L'idea è questa, poche parole da tenere in tasca, e poi si incomincia dall'inizio, dalla fine, da dove si vuole, non è davvero un problema. L'importante è avere poche idee da condividere, qualche notizia, qualche buona notizia da portare. È un'emozione bella mentre lo si racconta, cioè veramente merita. È stato fatto in un modo meraviglioso questo corpo e le sue funzioni, i suoi significati. E noi siamo qui a continuare a raccontare. Con queste che chiamiamo parole chiave possiamo accedere ai racconti. Per chiudere, un bambino? È un bambino, è una bambina, diremmo che sì, che papà e mamma si vogliono bene, ma questo non è il motivo per cui mettono il semino. Semmai è il motivo per cui hanno cercato te, no? il loro amore sei stato tu. E quindi, mentre si amavano, volevano che questo amore diventasse qualcuno oltre loro, e ti hanno cercato, e ti hanno voluto, e ti hanno chiamato, e adesso sei qua. Questo è bellissimo, una notizia fantastica per un bambino, mi rassicura. I bambini, sia sapere che noi ci amiamo, che questo amore è lo stesso amore che ha chiamato loro. E poi ci chiedono, sì, ma come si fa? E quello lo fanno anche quelli che non hanno l'amore, quindi non possiamo barare al gioco. Ma tra l'altro loro non hanno bisogno di tenere insieme tutte queste cose, vogliono saperle una per volta bene. E gli va bene così, è solo quello che gli sta interessando quella volta lì. Per cui dicono, ma come fa a entrare il pisello di papà nella pancia della mamma? Trucco. Quando te lo tocchi cosa succede? Diventa duro, anche papà. Ok? Le carezze della mamma sono fantastiche. Però si fanno solo tra papà e mamma quelle carezze lì. Ok? E alla patatina della mamma succede che non vede l'ora di far venire papà dentro la sua patatina. Ok? Ma gli fa male? No. È fatto apposta perché sia bello. Mi spiego? Ah, ma fa schifo. A te va bene che faccia schifo, a noi no. Però siamo papà e mamma. No, ma certo, non è che lo prende come una roba fantastica, perché dovrebbe piacere? Vedete, allora perché non evitiamo di dire tutte queste cose? Per la questione del gioco educativo. Va bene? È giusto fargli mettere il cilindro nel cerchio, il cubo nel quadrato, però non è giusto dirgli che una roba molle entra in un buco che non c'è, perché questa è magia. Va bene? Non è spiegargli la realtà. E si perdono, non capiscono, dicono che è una roba strana e anche un po' rischiosa, quindi non parliamone più perché quelli stanno male quando ce ne parlano. Ok? Quindi stiamo su cose molto semplici, il cervello dei bambini è fatto così, no? Prima conosce la realtà, poi ci mette su gli affetti. Se voi volete far sapere cosa sono le mele a un bambino, comprate le mele, non gli fate vedere Biancaneve, Biancaneve dopo le mele. Ok? E allora, se si può spiegare bene come funziona la cosa, in modo semplice, bello, che non fa male, che piace a papà e mamma, punto, a loro fa schifo e va bene, così non hanno voglia di farlo, che poi vedono la pornografia e non capiscono più niente, meglio non fargliela vedere, se ne parla in intervallo, poi diremo la prossima volta, e sanno quel tanto che gli basta, poi si distraggono, ma sanno una cosa vera. Poi ci mettono l'affetto, l'amore, ma non connesso al pisello alla patata, quelle robe lì non sanno ancora tenerle tutte insieme. Hanno i pezzi. Si vogliono bene, si amano, ma hanno chiamato con amore, sono il loro amore. Beh. Fanno delle coccole che gli piacciono. Vabbè. Se gli piacciono. Per mettere i semini, a papà viene il pisello duro, la patatina di mamma diventa accogliente, gli piace un casino a tutti e due, bene. Tre robe. Poi dopo le metteranno insieme, ma molto più avanti. All'inizio è inutile sfinirvi, perché capiscano che ci vogliamo bene e quindi mettiamo il semino, perché questo non gli va più. Okay? Sto solo cercando di farvi intuire come funziona il cervello a quell'età, e noi dobbiamo rispondere a loro, non ai nostri problemi, mi spiego? E lo so che è più difficile dire una cosa per come accade, ma basta dirla in modo facile e semplice, senza metterci troppo contorno. Questo un metodo va riadattato, ognuno poi troverà il suo. È soltanto un insieme di punti da cui guardare alle domande e costruire le risposte. La prossima volta ci tufferemo nelle domande e proveremo a toccare i discorsi degli adolescenti, le loro preoccupazioni, anche l'omosessualità, anche l'orientamento, ma soprattutto come accompagnarli nell'idea fantastica che fare sesso e fare l'amore forse non sono proprio la stessa cosa, e far l'amore merita davvero. Buona serata, grazie.